E buonasera amici affezionati a 8 Hertz, il programma che va avanti dal novembre scorso qui su Radio Wombat. È stato uno dei primissimi nel rooster dei programmi a andare in onda. E benvenuti anche a chi c'è di nuovo ascoltatore ad ascoltare proprio questi deliri che mi vengono in mente un po' per segnare un percorso di idee sonore e mentali sulle frequenze degli 8 Hz, che sono delle frequenze particolari, nel senso che agiscono, sono le classiche frequenze che agiscono in uno stato di sonno un po' particolare, quindi dove tutto, diciamo, è possibile anche per chi, proprio per te stesso. E andiamo con calma, perché questa settimana l'incipit della puntata si chiama Tuono mentre mente perfetta, ovvero Thunder Perfect Mind. E l'incipit, appunto, mi è partito nel cervello ascoltando un brano dei Nursery Wand, che ormai da tantissimo è il progetto solista di Stephen Stapleton, compositore, musicista, sperimentatore inglese. All'inizio erano un trio, già nel 78 iniziarono a fare musica, poi dall'81 in poi diventò solo la fucina delle sperimentazioni, appunto, di Stephen Stapleton. Stephen Stapleton con il progetto Nursery Wound si è sbizzarrito con la sua fonte primaria di ascolto, che sono di concezione musicale, che è tra il surrealismo e il dadaismo. Le cose, i tanti dischi che ha fatto oscillano tra i cut-up, quindi suoni tagliati, registrazioni di campioni e anche cose più ambientali e oscure. Infatti era comunque dentro un po' la scena del post-industriale, insieme ai Coil e Current 33, che tra l'altro i Current 33 fecero comunque un disco che si chiama, tra l'altro è famosissimo per chi conosce la discografia dei Current 33, Thunder Perfect Mind. Quindi esistono due dischi con questo nome di persone che si conoscevano e hanno anche suonato insieme e collaborato insieme. C'è da dire sul Thunder Perfect Mind, sul tuono mente perfetta o intelletto perfetto, che era un poema gnostico in lingua copta, ovvero era il tardo egiziano. Si sta ragionando su un poema che era del 350, più o meno, di un autore sconosciuto a noi, purtroppo, perché ci sono arrivate pochissime cose. Si pensa che la versione precedente sia stata fatta in greco attraverso dei ritrovamenti, insomma. Di cosa parla? È difficile spiegarlo e non è certo questa la sede e la trasmissione adatta. Nina e Nenia potrebbero, dell'Accademia della Brusca, che è sempre un programma di Radio Wombat, potrebbero dirvi qualcosa di meglio rispetto a me. E comunque è un lungo monologo enigmatico di un salvatore, in cui un salvatore immanente espone una serie di affermazioni paradossali sulla natura femminile del divino. Quindi è importante ricordarsi il paradossale, che perché è un po' anche la guida di tutta la puntata, che ha veramente compositori e composizioni molto fuori dagli schemi, di personaggi che ci hanno sputato il sangue per ottenere, per imparare, per pensare, per eseguire delle composizioni che sono veramente una ricerca assoluta e personale. Comunque, appunto, ragionando sui paradossi e sulla natura femminile del divino, si giunge, Stephen Stapleton giunge a questo brano. Il disco ha solo due pezzi abbastanza lunghi, non mi ricordo ora di quando è, del 1992 esattamente, almeno la prima stampa. E questa è la prima traccia, si chiama Cold. È importante ricordare che Steve Stapleton, come North Sweet Wound, ha fatto la NWW List, che sarebbe una lista, un omaggio a una sorta di una sorta di shopping list, cioè, ovvero un elenco di compositori o di dischi dall'A alla Z, prevalentemente degli anni 50, 60, 70, attraverso i quali la sua musica si è creata, una piccola enciclopedia di dischi consigliati, pazzeschi e di sperimentazione, che sarebbe importante, insomma, che le persone conoscessero, e lui proprio le divulgò attraverso questa lista. Ma ora basta parlare, scusatemi anche se sono stato magari un po' prolisso, ma iniziavo così a farvi capire di cosa ascolterete in questa puntata. Noi ci sentiamo dopo, il pezzo è un po' lungo, ma ce l'ascoltiamo insieme, secondo me vale la pena. E poi vi racconto anche un aneddoto molto carino. A dopo. Thank you. Thank you. E avete ascoltato Cold dei Nursewit Wound, anzi di Nursewit Wound, che sarebbe Steven Stapleton, inglese già da fine anni 70, nel 78-79 ha iniziato a fare musica e casino e follie con questo progetto. Cold è uno dei due pezzi, il primo tratto da... Thunder Perfect Mind, che appunto era un disco del 92 targato Nursewit Wound. Ci stava bene proporvi cose che sono di proprio un'altra terra rispetto all'Europa, e infatti vi metterò due pezzi di artisti giapponesi che si trovano tutti e due in una compilation che comprai tanti anni fa, che si chiamava proprio Japanese Avant-Garde. Era una compilation del 2002 che etichettata Sub Rosa, che è un'etichetta belga che propone tuttora roba elettronica di un certo tipo. E in questo disco, che è molto bello, credo sia solo in CD, ci sono anche nomi come Merzbov, Otomo Yoshihide, i Ground Zero, insomma gente abbastanza che ha fatto la storia anche del noise giapponese. E è buffo che finisce, le ultime due tracce sono due interviste a due registi spettacolari e tosti giapponesi come Takeshi Miike e Shinya Tsukamoto. Appunto Tsukamoto è quello che fece Tetsuo e tanti altri bei film. Il primo pezzo che ascolterete è della Multiphonic Ensemble, si chiama Electronic Music Box, che dalle aree anche queste simili a uno scherzo come quello che abbiamo ascoltato prima, forse meno caricato di esoterismo, di storia, ma comunque sempre all'avanguardia. Buon ascolto. Multiphonic Ensemble, appunto un insieme pazzo giapponese che mischia sample, elettronica, glitch e qualsiasi tecnica astrusa sia a livello di composizione che a livello di sonorità. Un altro, appunto, come avevo promesso, un pezzo a seguire, sempre tratto appunto dalla compilation Japanese Avant-Garde del 2002 della Sub Rosa, è molto differente e gioca più su cose più distese. Vi prometto che non vi metterò più in stasera roba glitchata che magari può risultare fastidiosa, ma vi ricordo che domani al Next Emerson a Firenze in via di Bellagio proseguono le serate per del compleanno dell'Emerson, che è un lungo compleanno che si fraziona in vari fine settimana, e a questo turno la serata è ad opera di Odrone che proporrà i Loia e soprattutto i Grime, che sono un po' più conosciuti e sono veramente doom, sludge, un po' doom, insomma, roba lenta che ci piace tanto, mi do del plurale. Comunque, quindi andateci, che secondo me sarà una bella serata, anche Loia e Ile non sono da meno, e sono roba più vicina all'hardcore, al blackened, a quanto pare si chiama così la nuova ondata che mischia l'hardcore a qualcosa di black come il black metal. Comunque, tornando a noi, il pezzo è che non so nulla di loro, comunque Bisk, giapponesi, si chiama Skinned Woman, è quasi un carillon che piano piano viene accelerato. Mi è sempre piaciuto questo pezzo, buon ascolto. Thank you. e vi ricordo comunque le varie trasmissioni che sono qua, ma prima delle news sulle trasmissioni vi ricordo un po' che siamo sui social come Facebook, come Twitter, è molto facile trovarci, basta digitare Radio Wombat o Wombat Radio Firenze, lo trovate, e soprattutto il sito, ma se ci state ascoltando è sempre il solito. Tra l'altro troverete tutti i podcast delle trasmissioni dalle origini della radio ad oggi, e la mail che è pastawombat@insiberia.net, per cui scriveteci e proponeteci anche qualcosa se vi va, e fateci sapere se vi piacciono le trasmissioni, ma così come potete scriverlo anche negli altri social e dà un po' di partecipazione, se no qui è un mosciume. E trasmissioni nuove, come vi avevo detto nelle puntate precedenti, il palinsesto è cambiato e oltre alle storiche trasmissioni che ormai conoscete, ce ne sono di nuove. E adesso vi dico le ultime novità che hanno già trasmesso e sono già in podcast. Senza frontiere, che è di un contenitore che parla di culture, lotte internazionali, storie del mondo, come dicono loro. Poi c'è 13 Boots 20, sul punk, sulle sottoculture di strada, veramente a suon di creste e bretelle. E Coming Song, che è la nuova trasmissione che parla di colonne sonore e musica. Loro dicono viaggi musicali nella storia del cinema e viceversa. Per cui ascoltateli, sono tutte trasmissioni molto molto interessanti. Collegandoci a Coming Song, omaggiamo l'ingresso di questa trasmissione, 8 Hertz l'omaggia, mettendo un pezzo di una colonna sonora. Ormai sì, vi ho fatto sentire tante volte le cose di Trent Reznor con i Nine Inch Nails. Questa è insieme a Atticus Ross, che hanno fatto tante colonne sonore ai film di David Fincher. Quella che vi sto per mettere è tratta da The Girl with the Dragon Tattoo, del 2011, mi pare in italiano era Millennium e qualcosa, vabbè, comunque storia complicatissima e bella come solo Fincher riesce a mettere in immagini in movimento, grazie a delle solidissime, a un testo, a una sceneggiatura solidissima. È comunque dentro, all'interno della trasmissione sulla Thunder Perfect Mind, perché utilizzano Trent e Atticus un linguaggio che ormai è proprio una forma, che è un marchio loro di fabbrica. Per cui buon ascolto, questo è... si chiama Another Way of Caring. Tra l'altro la colonna sonora è 3 CD, sono tantissimi brani e tantissimi sono appunto belli come questo, che a cupo è sempre con un timbriche di pianoforti. Thank you. Sei su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. Sta finendo il pezzo di Trent Reznor e Atticus Ross. E come vi avevo promesso, vi volevo raccontare un aneddoto che è a tema con la puntata e con queste sonorità. Correvano gli anni che non mi ricordo, ma saranno stati fine anni 90, primissimi 2000. Era agosto, faceva caldissimo, era orario di pranzo, non c'era nessuno per le strade di Firenze e mi ricordo che ero vicino a un passaggio a livello che ora non c'è più sulla Faentina, vicino Piazza Libertà a Firenze, e il passaggio a livello quando c'era durava tantissimo, per cui le macchine che si fermavano lì dovevano aspettare svariati minuti. Passando da quelle parti c'era un furgone di questi che degli spedizionari che portano i pacchi, insomma, e aveva tutti i finestrini aperti e c'era una musica bellissima, surreale in quel momento, a quell'ora in città alla radio, era piena di marimbe, suoni percussivi, strumentazioni classiche ma del Novecento, comunque di sperimentazione. Non ho mai saputo cosa stava andando in onda in quella radio, anche perché ai tempi non c'erano tutti questi aggeggini sui cellulari che basta schiacciare e ti dicono cosa stai ascoltando. Però mi sono goduto questi 5 minuti surreali davvero, in un contesto urbano che mai mi sarei aspettato di trovare, forse neanche chi stava guidando il furgone, che tra l'altro ha continuato veramente a ascoltarlo e forse era preso bene anche a lui. E questo tipo di sonorità sono anche un po' quelle che ci andiamo ad ascoltare nei due pezzi successivi, gli ultimi due. Uno è dei Coil, che vi ripiazzo un'altra volta. È un pezzo tratto da Ape of Naples, che è il disco uscito postumo nel 2005 dopo la morte di John Balance, purtroppo, maledizione. Il pezzo è Teenage Lightning, che in realtà è un pezzo che si trova anche in altri dischi, si trova in primis in Love Secret Domain, che era degli anni 90, che era un disco elettronico anche un po' più ritmato rispetto ad altri, che ha segnato la storia. Love Secret Domain era, le iniziali sono LSD, per esempio, e poi si ritrova anche nei live ufficiali, in qualche live ufficiale che stamparono dopo, molto dopo. Si ritrova in un disco poco precedente a Ape of Naples, che adesso purtroppo non mi ricordo come si chiama, Black Antlers, ecco, me lo ricordo. E questa è la versione ultimissima, l'ultima testimonianza di quello che appunto della luce giovanile che appunto non deve far paura, non fa male, che ha un amore oscuro, come dice un po' il testo, per cui accettate questa luce, questa sorta di energia, questo impulso della giovinezza, e non la abbandonate mai. Thank you. Thank you. Ma pezzo meraviglioso come tantissimi della loro discografia. Chissà cosa avrebbero fatto se fossero stati ancora vivi, ma più che parlare di morte parliamo di partita verso qualcos'altro, che come hanno sempre affermato loro, qualcosa di altro rispetto alla vita terrena. Comunque, ci avviamo all'ultimo pezzo, che in realtà anche questo è una bella mazzata. È un pezzo di 16 minuti e rotti del grande Steve Reich, famosissimo compositore, insieme alla Monte Young, Terry Riley e Philip Glass della corrente minimalista, e molto più vicino a Philip Glass per quanto riguarda la ripetitività. Ce l'ho fatta a dirla senza incastrarmi la lingua nel dito tra le dita dei piedi. Ecco, diciamo che rientrando nell'ottica ritmica di suoni percussivi, come abbiamo sentito anche di pianoforte, perché il pianoforte è uno strumento a percussioni, e le marimbe, l'elettronica in generale, i glitch messi anche un po' a tempo, diciamo. Steve Reich è un compositore che ha esplorato tantissimo le potenzialità della ritmica, appunto a livello, come si diceva prima, ripetitivo, senza dare troppo spazio a un'interpretazione romantica, e invece dando una partitura rigorosissima, fredda e marcata, insomma, non so come spiegarvelo in altre parole. Comunque, avendo fatto studi anche sulle tecniche percussive della musica circolare africana, tantissima discografia sua si muove proprio sulla componente ritmica in primis. Ha usato strumenti come, o usa ancora, strumenti come gli xilofoni, i vibrafoni, il piano. C'è un disco dei live con 6 pianoforti e 6 marimba tutte insieme, che fanno delle cose a incastro assurde. Ha fatto anche cose per non so in gergo come si chiamano, comunque i legni battuti con altri legni, tipo tonk, tonk, tonk, tonk, e 6 persone che suonano questi legni e fanno delle cose bellissime. Le potete trovare anche sul tubo, come live anche. E il pezzo che vi metto invece è tratto, che poi non è proprio tratto, ma uscì nel 1970 Drumming. E il pezzo che ho trovato io è rifatto dal Portland Percussion Group nel 2012. È un movimento di questo disco, appunto, del 70, rifatto molto più tardi, quindi registrato anche con un'attenzione e delle possibilità diverse. E sono 8 tamburelli, non so come definirli, tipo assomigliano a dei bonghi in fila, e questi 8 percussionisti li suonano con le bacchette, ognuno il suo, però specchiati uno di fronte all'altro, quindi una fila di 8 percussioni, questa specie di tamburi che assomigliano ai bonghi, 4 persone da una parte e 4 persone da un'altra. E il risultato, secondo me, è fuori di testa, così come tra pochissimo vi risulterà, insomma. E vi do la buonanotte, perché questo è l'ultimo pezzo. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre con qualcosa di diverso che prende in un viaggio settimanale o giornaliero, che è di vita e di morte, e che ognuno di voi si dovrebbe fare. Buon ascolto.